Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica, mondo sul quale si manifestano già i riflessi dell'emergenza sanitaria innescata dal coronavirus. Gli ultimi aggiornamenti li avete appena sentiti in effetto giorno. Inizialmente lo stop di 90 giorni dei voli da e per la Cina, scattato venerdì con lo stato di emergenza dichiarato dal governo, ha incluso anche i cargo. Poi, alla luce delle valutazioni dell'unità operativa speciale costituita al Ministero degli Esteri, è stato stabilito che le merci possono tornare a volare. I porti restano aperti, ma sono intensificati i controlli sulla base di specifici protocolli. In particolare è stato deciso di estendere alle navi in transito la procedura di libera pratica sanitaria prevista per le navi non comunitarie. In sostanza, i medici potranno salire a bordo per effettuare analisi ed esami, sia se verranno segnalati casi sospetti, sia agendo autonomamente su disposizione delle ASL. Ma più in generale, un'eventuale quasi scontata a questo punto contrazione dell'economia cinese determinerebbe una riduzione degli interscambi e quindi minor traffico, in particolare in alcuni scali della penisola. Una minaccia molto concreta che preoccupa gli operatori. L'autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, per esempio, sottolinea che per il porto di Genova la Cina è un partner commerciale strategico che vale dal 15 al 20% del traffico di container movimentati all'ombra della lanterna. Stesso discorso per Trieste: secondo i terminalisti, quasi il 40% delle navi che approdano nello scalo Giuliano tocca la Cina. Emergenza coronavirus e gli impatti sulla logistica, il punto con Luigi Merlo, presidente di Federlogistica. È evidente che rispetto alle proiezioni, ma anche alla quantità e alla dimensione degli scambi tra East, Far East, Europa, si prevede una forte flessione. Tanto una forte flessione per il tipo di anche della produzione cinese, ma anche per le procedure di controllo che sicuramente verranno aumentate, verranno in qualche modo rafforzate. E quindi da questo punto di vista le proiezioni, almeno per i prossimi 2 o 3 mesi, sono proiezioni significative e negative, soprattutto per alcuni tipi di categorie, dal food, ma anche in generale per tutti i prodotti in import ed export dalla Cina. Ma pensiamo anche, ad esempio, e nessuno per ora o pochi ha fatto la correlazione, a questo evento con il grande disegno della Belt and Road, della Via della Seta, no? L'idea dominante della Cina di costruire questa rete enorme per governare le reti infrastrutturali e di comunicazione, e allo stesso tempo il pericolo che parte da quel paese. Forse una riflessione più generale va fatta anche sul fatto come la dimensione attuale del commercio, della logistica e della velocità dipenda sempre più anche da fattori geopolitici o di situazioni particolari, come in questo caso di carattere sanitario. Un altro fatto centrale di questi giorni è la Brexit ormai compiuta. Da sabato la Gran Bretagna è in Europa solo geograficamente. Fino al 31 dicembre nulla di fatto cambierà, ma certo questi 11 mesi saranno decisivi per negoziare l'accordo di partenariato che dovrà regolare i rapporti tra Londra e Bruxelles. Cosa succede? Soprattutto cosa potrà succedere per i trasporti e la logistica a partire dal 1 gennaio 2021? Ne parliamo con Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, che in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Lomonte, da settimane sono stati aperti vari tavoli, anche a livello ministeriale, per affrontare un quadro normativo chiaramente diverso rispetto a quello che è stato finora. Devo dire, c'è molta incertezza di fondo su quanto poi accadrà in concreto. È così, Lomonte? Dice bene, i tavoli a livello istituzionale, ministeriale, sono costanti proprio perché ci si sta interrogando. È ancora una fase di totale confusione legata appunto alle incertezze in questo percorso, in questo processo che si avvia, ecco, ad iniziare. Il problema è che questa uscita, ecco, non ha ancora esplicato tutti i suoi effetti in termini di chiarezza interpretativa, quindi l'Italia si sta in qualche modo preparando a dei negoziati bilaterali, l'Italia a livello di paese, a dei negoziati bilaterali sulle materie che non saranno oggetto invece dell'accordo macro che l'Unione Europea sta negoziando. I tanti operatori impegnati nei trasporti internazionali quindi avranno a che fare con tutta una serie di ulteriori questioni che l'Italia sta trattando già in via informale con il Regno Unito. Ecco, in concreto, quali sono i punti sui quali si sta discutendo, sui quali state discutendo? La gestione dei transiti da e verso l'Italia, le condizioni anche di reciprocità nella determinazione di alcune fattispecie, mi riferisco, che ne so, ai fenomeni legati ai tempi di guida, alla velocità, alla sicurezza, che erano tutte questioni che promanavano da direttive e da regolamenti comunitari. Oltre ovviamente al tema imprescindibile, quello della concorrenza che già soffriamo da parte dei vettori esteri dei paesi dell'est, in quanto hanno condizioni di miglior favore e che non vorremmo, ecco, provenisse anche da ovest. Quindi anche lì in tema di concorrenza ci sarà da stabilire tutta una serie di misure relative per esempio al cabotaggio, no? A tutto ciò che noi lamentiamo da sempre, la somministrazione irregolare, il cabotaggio abusivo, che andranno normate. Su questo l'Italia c'è, perché i contatti sono costanti con le direzioni preposte del Ministero dei Trasporti. Noi cercheremo come organizzazione, come Confartigianato Trasporti, di portare il miglior contributo per i nostri autotrasportatori. Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, grazie e buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti. Salve. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzierà 12 milioni di euro in più per il Mare Bonus, risorse che andranno al 100% agli autotrasportatori. Lo ha annunciato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri al termine dell'incontro con i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori, convocato per affrontare la questione dell'adeguamento dei noli marittimi. Noli marittimi che dal 1 gennaio sono aumentati tra il 20 e il 30% per effetto della nuova normativa sulla riduzione delle emissioni inquinanti, normativa che ha comportato investimenti da parte degli armatori. Il tavolo è stato aggiornato. Nella prossima riunione, si legge in una nota del Ministero, verrà affrontato il tema più specifico che riguarda la Sardegna e la continuità territoriale relativamente al settore dell'autotrasporto. Vicenda Ilva, il rispetto dei tempi di pagamento dei servizi, la riduzione delle attese alle operazioni di carico e scarico e la garanzia delle condizioni di sicurezza sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma tra i rappresentanti di ArcelorMittal e le associazioni dell'autotrasporto. L'azienda ha confermato la volontà di garantire continuità nei rapporti con un fornitore strategico quale appunto l'autotrasporto. Spesso purtroppo vi avevamo dato conto di rapine ai tir in viaggio lungo le strade della Puglia. È notizia di pochi giorni fa: i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno sgominato una banda di rapinatori specializzati negli assalti e danni dei mezzi pesanti. L'indagine è partita da due episodi avvenuti un anno fa a Barletta. In quella circostanza, nel mirino della gang erano finiti due mezzi carichi di tabacchi lavorati esteri. 8 le ordinanze di custodia cautelare eseguite tra Barletta e Andria. Il colonnello Fabio Cairo, comandante provinciale dei carabinieri di Bari. Abbiamo avuto modo di verificare che questo tipo di batterie si compongono di un nocciolo duro di persone che sono particolarmente esperte e poi, a seconda del tipo di colpo da compiere, possono ricevere l'innesto di altri esperti nel settore. In una circostanza, proprio per evitare di essere investiti, i nostri carabinieri, nel tentativo di impedire che venisse portata a compimento una rapina, hanno posto in essere un posto di blocco lungo la strada, ma questi soggetti non hanno esitato a investire la macchina. Fortunatamente i carabinieri sono scesi prima, quindi la macchina ha subito grossissimi danni, è stata schiacciata, ma loro fortunatamente non si sono fatti niente. Nuovo pronunciamento dei giudici sul contestato contributo all'autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto. Il TAR del Piemonte ha annullato la delibera dell'Authority relativa alla richiesta di pagamento del contributo di funzionamento per l'anno 2019. Ne dà notizia Confartigianato Trasporti. Pertanto le imprese che avevano ricevuto la richiesta da parte dell'autorità dei trasporti possono continuare a non pagare il contributo. Con una circolare, l'INPS ha fornito una serie di chiarimenti sul regime contributivo al quale devono essere assoggettati i lavoratori in trasferta e i cosiddetti trasfertisti. Capiamo meglio da Lorenzo Giannuzzi, esperto in materia previdenziale. L'INPS riconosce le trasferte occasionali per i lavoratori in trasferta e le trasferte abituali per i trasfertisti. Per ognuno dei due tipi di trasferte è previsto un compenso. Di conseguenza il compenso può avere una natura risarcitoria o retributiva. I lavoratori trasfertisti, cui applicare l'imponibilità del 50% sulle indennità e sulle maggiorazioni, sono individuati da questi elementi. la mancata indicazione nel contratto e o lettera di assunzione della sede di lavoro, lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità e la corrispondenza al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione. Misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta, perché attribuita senza distinguere se il dipendente sia effettivamente recato in trasferta o dove si è svolta la trasferta. È previsto a tal riguardo un trattamento per i trasfertisti e per coloro che sono tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa, in luoghi sempre variabili e diversi. A riguardo viene indicata una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare. Ora una serie di notizie di servizio per chi questa settimana viaggerà in autostrada nelle ore serali e notturne in Abruzzo dalla prossima notte per 5 notti consecutive, quindi fino a sabato, sulla A24 dalle 22 alle 6 per verifiche tecniche e manutenzioni è chiuso il traforo del Gran Sasso, quindi è interrotto il tratto San Gabriele-Colledara a Sergi. Per lo stesso motivo, sulle autostrade Liguri è in programma una serie di chiusure che riguardano vari tratti della 12 Genova-Sestri-Levante e della 10 Genova-Savona. Impossibile qui da andare nel dettaglio, ci vorrebbe davvero troppo tempo. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti attraverso le nostre rubriche e gli avvisi sui pannelli elettronici e poi si può fare riferimento al sito autostrade.it. Con questa notizia di servizio oggi termina hashtag autotrasporti. Vi ricordo l'appuntamento del sabato, un approfondimento su questi temi con Massimo De Donato in container e in onda alle 13.15. Hashtag autotrasporti ritorna lunedì alle 13.45. Grazie per averci seguito. Da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.